Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. La bufala in tavola di Nicoletta Carbone. La patata non lo metto in pensione perché io lo uso per proprio per tagliare le verdure belle sottili a ricciolini, così almeno lo usiamo e non lo buttiamo via, è quello che ci sono affezionata. Quindi io il gambo lo mangio, ad esempio. E quella infatti già dai, vedi buona che pranzo. Siamo quasi amiche. Allora, mi porto avanti. Quindi è nato tutto da un carciofo. Ma buongiorno e buona domenica, il nostro diario sonoro segna un po' lo scoccare del mezzogiorno, ci porta in famiglia e io vi stavo proprio aspettando perché ci sono delle novità che bollono in pentola qui alla tavola della bufala in tavola, così mi auguro che la domenica sia sempre più buona. Squilla più, il tuo ragazzo ha preso il volo. Ma buona domenica, che bella idea avete avuto a venire e restare con noi. Oggi tra l'altro abbiamo una novità. Abbiamo pensato di far partire una nuova rubrica che potremmo chiamare, a noi è venuta questa idea ma voi suggeritecene altre, Adesso che cosa mangio, ed è un appuntamento che abbiamo pensato per dare risposta a tutti i dubbi che noi abbiamo intorno alla relazione tra cibo e salute. Ci sono tante occasioni, ogni giorno noi ricorriamo al cibo per gusto, per piacere, ma anche per tirarci su, per nutrirci adeguatamente, per ritrovare anche il benessere. Ciascuno di noi ha dei piatti, degli alimenti che mangia magari quando non si sente particolarmente bene, vuole ritornare in forma. Ci sono tanti dati che dimostrano questa relazione stretta tra quello che mangiamo e come stiamo, ma noi vogliamo vederci più chiare e anche, perché no, smascherare qualche bufala. Vi do qualche esempio così di che come ce la immaginiamo questa rubrica, che poi dovete aiutarci a mettere in piedi anche a partire dal titolo. Noi abbiamo buttato lì Adesso cosa mangio, ma suggeritecelo voi. Ad esempio, ho scoperto dagli esami di essere anemica e adesso cosa mangio? Oppure mi sono iscritta in palestra e adesso cosa mangio? Come deve essere la mia dieta? Oppure non riesco a concentrarmi e adesso cosa mangio? Insomma, mandateci il vostro vocale, mi raccomando, scatenatevi. Il numero è molto semplice, so che non ve lo ricorderete, ma noi la mettiamo sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute. 335, provo a dirvelo, 335 quindi 830 4306. Da settimana prossima naturalmente inizieremo a rispondere alle vostre domande, ovviamente sempre qui alla bufala in tavola, perché chi mangia bene vive meglio, un concetto che naturalmente non è solo di adesso, non scopriamo noi oggi, ma che ha una lunga storia dai greci fino ai nostri giorni. Fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. L'uomo è ciò che mangia. A tavola non si invecchia. Allora, abbiamo puntato sul classico Feuerbach, Ippocrate, e poi naturalmente abbiamo anche messo un proverbio, un modo di dire che tutti noi conosciamo, e conosciamo tutti anche l'ospite che abbiamo invitato a sedersi a capotavola alla nostra tavolata della bufala in tavola, e il professor Giovanni Scapagnini, ordinario di nutrizione clinica all'Università degli Studi del Molise e vicepresidente della Società Italiana Nutraceutica. Professore, buongiorno, bentornato, che bello. Buongiorno, grazie, bello anche per me. Ecco, allora, professore, relazione stretta tra alimentazione e salute. Anche gli antichi lo avevano intuito, quello che poi la ricerca ha dimostrato. E allora io partirei proprio da un classico: siamo quello che mangiamo, o meglio, l'uomo è ciò che mangia. Sicuramente il cibo è al centro della nostra esistenza, ci fornisce l'energia e la materia di cui siamo fatti, questo è intuitivo, in qualche modo è un qualcosa che sappiamo tutti. Quello che si sa meno e che forse è la cosa più interessante in un'ottica dello sviluppo degli aspetti funzionali di come utilizzare al meglio il cibo per la nostra salute è che il cibo contiene al suo interno messaggi che parlano direttamente alla nostra biochimica, al DNA delle nostre cellule, quindi è in grado di condizionare aspetti delle nostre funzioni. È interessantissimo poter immaginare di utilizzare il cibo migliore per ottenere degli effetti positivi su aspetti delle funzioni del nostro organismo, sia in un'ottica di supporto, sia in un'ottica di miglioramento. Quindi l'importante è scegliere, saper scegliere il cibo che parla nel modo giusto al nostro DNA. Assolutamente sì, esistono condizioni e condizioni. Normalmente diciamo esistono delle influenze collegate all'area geografica, alla tradizione storica, culinaria del luogo dove si vive. Però diciamo noi siamo abbastanza fortunati in questo perché siamo all'interno di, diciamo, di un'area in cui si è formata la storia delle civiltà. Ma anche diciamo la storia della nutrizione sana. Parlo ovviamente della dieta mediterranea che contiene al suo interno composti straordinari per influenzare le funzioni in maniera positiva del nostro organismo. Bene, professor Scapagnini, allora abbiamo capito perché è vero che siamo quello che mangiamo, proprio per questa informazione che il cibo passa al nostro DNA e a come lo condiziona. Ma noi non ci fermiamo qua, anzi ci fermiamo ma continuiamo perché andiamo ad analizzare un'altra frase che segna e sottolinea quanto il cibo possa davvero essere una sorta di terapia, una importante aiuto per mantenerci in forma o recuperare la nostra salute, non il solo naturalmente, ma svolge un ruolo importante, tanto che fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. E qua le ho sparato un bel Ippocrate. E vi ricordo il nostro numero per adesso cosa mangio: 335-830-4306. Dai, veloce veloce, digitatelo, mandate un vocale. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta La bufala in tavola. Chi mangia bene si nutre meglio e naturalmente guadagna non solamente in gusto e in piacere ma soprattutto in salute. Ne stiamo parlando con il professor Giovanni Scapagnini. Professore, ma quanto sono contenta che lei sia qua con noi. Ordinario di nutrizione clinica all'Università degli Studi del Molise e vicepresidente della Società Italiana Nutraceutica. Con il professor Scapagnini stiamo cercando così di scoprire e sottolineare quanto importante sia la relazione tra cibo e salute e perché mangiare bene ci aiuta a stare bene o a recuperare il nostro benessere. Ci stiamo appoggiando un po' su delle frasi che sono naturalmente un classico. Siamo partiti dal siamo quello che mangiamo, Feuerbach, adesso scivoliamo su Ippocrate, andiamo ancora più indietro nel tempo. Una straordinaria intuizione che la ricerca dimostra ampiamente fa che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Professor Scapagnini, ci affidiamo a lei, ma intanto stavo pensando, chi di noi non ha un'esperienza diretta su questo? Cioè noi magari quando non stiamo bene, oppure magari quando siamo giù di morale sappiamo a quale cibo rivolgerci, oppure quando non digeriamo bene ci sentiamo infreddoliti, ciascuno di noi, no? La ricettina, quel piattino che ti tira su, che ti mette a posto. Ma professor Scapagnini, che cosa ci racconta? Come possiamo capire che cosa c'è dietro questa frase? Quali sono gli studi, le ricerche, i dati che valorizzano questo sapere antico che però è sempre più moderno? Diciamo, la nutrizione pone le basi per il mantenimento della nostra salute. Questa forse è la prima frase, cioè, coniata da Ippocrate. È sicuramente la possibilità che il cibo sia anche usato come rimedio terapeutico in un momento in cui invece la salute è venuta un po' meno, è diventato oggetto di numerosissimi studi. Il cibo contiene al suo interno principi che possono essere definiti realmente in grado di interferire su aspetti non solo della salute ma anche della malattia. Come dicevi giustamente, intuitivamente o anche tradizionalmente ci appoggiamo ad alcuni piatti in situazioni che consideriamo difficili, fatica, raffreddore, cattiva digestione, però da un punto di vista scientifico si è andato molto oltre. Dal cibo possono essere estrapolati principi che sono diventati reali farmaci, quindi la maggior parte di questi principi rientra nel concetto del supporto alla fisiologia, del supporto alla salute, quindi aggiungo elementi che mi fanno stare bene, ma alcuni di questi sono diventati francamente farmaci. È chiaro, non è il cibo più in quanto tale, ma è parte del cibo che viene concentrata e utilizzata. Diciamo, gli esempi più classici sono le vitamine, ma moltissime altre sostanze, una sostanza di cui parliamo spessissimo, gli acidi grassi polinsaturi, quelli della serie omega 3, i famosi omega 3, sono un componente grasso molto presente nel pesce, che lo caratterizza, soprattutto il pesce azzurro e il salmone, ma estrapolati e concentrati sono come integratori supporto alla salute, ma nella loro storia sono diventati anche farmaci, vengono utilizzati per ridurre il rischio nei post-infartuati di morte improvvisa, di fibrillazione ventricolare, e recentemente, proprio quest'anno, sono entrati nelle linee guida della Società Europea di Cardiologia per ridurre i trigliceridi nelle ipercolesterolemie familiari, quindi delle reali patologie, diciamo, del disequilibrio del metabolismo dei lipidi. E questo è solo un esempio, ma ce ne sono tantissimi nel mondo vegetale, ancora di più, moltissimi composti derivati dalle piante vivono questa doppia identità, cibo, integratori da un lato e addirittura concentrati diventano farmaci. Ecco perché allora a tavola non si invecchia. Io poi mi occupo in particolar modo proprio di questo. Lo so, lei li va proprio a stanare i centenari. Di longevità, e quindi mi tocca sul vivo. No, diciamo, sembra che già gli antichi sapessero tutto quello che poi noi cerchiamo di far apparire come delle scoperte. No, c'è una doppia accezione anche in questo caso. Se da un lato il cibo è la base per un sano invecchiamento, una dieta corretta è una delle variabili che maggiormente impatta sulla qualità dell'invecchiamento, dall'altro proprio la tavola, intesa anche come momento di aggregazione sociale, ha un ruolo importantissimo non solo nello sviluppare, come dire, è stata all'origine dello sviluppo delle grandi civiltà, ma è anche molto importante nella gestione della qualità delle nostre relazioni personali, che sono altrettanto importanti per la qualità dell'invecchiamento. Professor Scapagnini, quindi sediamoci a tavola con i nostri familiari, regaliamoci dei piatti gustosi, colorati, appetitosi, perché la salute viene mangiando. Direi proprio di sì. Certo, sembra che comunque l'importante non sia eccedere, perché forse, ritornando al discorso della longevità, una delle poche cose che abbiamo imparato con certezza è che dobbiamo evitare di eccedere con la quantità di calorie ogni giorno. Quindi la salute viene mangiando, però sempre mangiando cose sane da un lato e non in maniera eccessiva. Grazie professor Scapagnini per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Buona domenica. Grazie. E svegliarsi la mattina con la voglia di parlare solo con te. Vi ricordate che la scorsa settimana ci siamo promessi di svegliare anche i nostri ragazzi adolescenti per farli sedere a tavola con noi? Il professor Scapagnini oggi ha sottolineato quanto sia importante anche il momento del pasto, non solo per quello che mangiamo, ma anche per quell'ambiente familiare che nutre un po' le nostre emozioni. Le relazioni nutrono la nostra salute al pari degli alimenti, e sicuramente un momento bello in cui ritrovarsi per iniziare bene la giornata è la colazione, che a proposito di dieta riveste sicuramente un ruolo importantissimo anche nell'equilibrio della nostra giornata. Adesso io mi chiedo, conoscendo le colazioni pantagrueliche che si regala e che suggerisce, a che punto sarà il nostro dottor Speciani, allergologo e immunologo clinico a Milano, se è ancora seduto alla tavola della colazione o se sta già preparandosi per il pranzo. Dottor Speciani, buongiorno. Buongiorno, buona domenica a tutti. A che punto è lei, dottor Speciani? Perché io quando faccio colazione, guardi, io devo lo confesso così apertamente, spesso penso a lei quando mi preparo una colazione con i fiocchi, dico, ma sarà all'altezza? Sarà all'altezza? Potrò competere con le colazioni specianesche? Forse assolutamente sì. Assolutamente sì, direi che, anzi, quando sento parlare e raccontare queste colazioni della domenica da parte di Nicoletta, devo dire che mi compiaccio. Il tema è che non è solo la domenica, questa cosa è fondamentale, perché poi riuscire a trasferire questo atteggiamento nella quotidianità, che è l'elemento cardinale, soprattutto se parliamo ad esempio di giovani, di ragazzi, di studenti, per dire, sono elementi quando loro vanno a scuola, no? Quante volte si scappa via. Come fanno? E invece c'è un tema che io, proprio toccando questo aspetto, direi, mi piace citare uno studio bellissimo che hanno fatto un paio di anni fa nel Galles, in cui hanno valutato com'era la colazione rispetto all'andamento scolastico. Fantastico, un lavoro tra l'altro amplissimo, che ha portato anche dei cambi sociali, che mi piace raccontarlo. I ragazzi inglesi nel Galles, ma in tutta la Gran Bretagna, hanno questo SAT, che è lo Statutory Assessment Test, praticamente una specie di test di valutazione che fanno intorno agli 11 anni, tra gli 11 e i 12 anni a scuola, per vedere come diavolo hanno digerito, tocchiamo sempre la digestione, no? Digerito un po' delle cose che hanno dovuto imparare nei primissimi anni. Bene, è stato fantastico, perché hanno fatto una valutazione a 6, a 12, a 18 mesi di quelle che sono le condizioni di alimentazione di questi ragazzi qua. Bene, allora, si è scoperto che quelli che facevano una colazione esattamente come quella che prima descriveva Nicoletta, quindi con bilanciando bene le proteine, i carboidrati, la frutta, la verdura, cibi integrali, cose adatte effettivamente a mantenere la stabilità del rapporto con gli zuccheri, perché se io do un cucchiaino di zucchero ad un bambino, questo per 10 minuti sembra tutto vispo, vitale, risponde, poi dopo 10 minuti va in ipoglicemia e resta completamente, io uso un termine giusto, siamo di domenica, rincitrullito per il tempo successivo. Allora, cosa hanno visto? Comunque lei ci dà un assist meraviglioso, una scusa fantastica, perché quando ci magari il nostro compagno, il nostro collega ci dice, ma ti vedo un po' rincitrullito, non ho fatto colazione. Esatto, quello è giusto. Non sono io, è che mi è mancata la colazione, oggi ero di fretta, non ho fatto colazione, quindi... Ce la caviamo, sono scuse queste. Ci dà una bella scusa, me la rivenderò a piene mani. Quindi... Sai cosa hanno visto questi ragazzi? Hanno visto che la resa in questo test di valutazione che fanno intermedio era da 2 o 3 volte maggiore, migliore, cioè c'erano proprio risultati decisamente positivi in quelli che stavano facendo la colazione. Non solo, vorrei dire, hanno potuto valutare, attenti, fare colazione è quella che ho indicato, perché quelli che mangiavano dolcetti al mattino, svegliandosi, quindi tazzina di tè o tazzina di qualsiasi cosa, un goccio di latte, ma... poi solo dolci e merendine, per dire, in realtà non avevano questo tipo di effetto, quindi non è il fare la colazione, è farla giusta, è farla bene, e hanno visto che c'erano da 2 a 3 volte il numero di dati positivi in quelli che stavano facendo colazione. Non solo, si è visto, questo è importantissimo, che quelli che poi avevano smesso per qualsiasi motivo di farla, in realtà avevano per almeno 6-8 mesi un effetto positivo ancora, che resisteva proprio sull'apprendimento. Quindi è un tema, cioè non stiamo ragionando solo sulla giornata, stiamo ragionando su una impostazione generale che rende l'apprendimento e l'assorbimento dei cibi che mettiamo dentro positivo. Dai, fai colazione che prendi dei bei voti a scuola, potremmo convincerli anche così. Naturalmente dobbiamo essere noi per primi come genitori a convincerci a fare colazione, a farla bene. Ci sono delle colazioni adatte a ciascuno di noi in base anche all'età, alla nostra attività, al nostro lavoro. Abbiamo parlato della colazione dello studente, ma c'è chi ad esempio fa colazione occasione per ricaricare le batterie e andare a fare sport prima di andare al lavoro. Oppure c'è chi sta già pensando alla colazione che dovrà fare lunedì, proprio questo lunedì, quello che ha scelto per mettersi un pochino a dieta, parola bruttissima ma insomma che rende l'idea. Noi ci fermiamo perché il dottor Speciani resta con noi e ci svelerà dei segreti, ci darà delle indicazioni supportate da meravigliosi studi che ci aiuteranno a capire cosa mettere nel nostro piattino, piattone, tazzino, tazzone della colazione. Voilà, c'è anche la rima. Vi do di nuovo il numero 335 830 4306. La prossima volta ve lo canto. Mandate un WhatsApp. E adesso cosa mangio? Avete un dubbio? State facendo magari un cambiamento nella vostra vita? Pensate che quello che portate a tavola potrebbe darvi un aiuto? Oppure ritenete responsabile proprio un vostro comportamento alimentare di un leggero disagio? Dai, adesso cosa mangio? I nostri esperti vi rispondono. Messaggio vocale. State lì, fate il messaggio, il dottor Speciani è lì. Dottore, che cosa sta mangiando lei? No, io adesso aspetto perché mangiamo pranzo, io ho già fatto... Ah, fantastico! Allora, ragazzi, ho fatto una cosa gentile. Bravo, allora vede che si guadagnano anche degli inviti a pranzo. Ma io dico sempre di sì. Fermiamo. La bufala in tavola. Così non rimane che un giorno in cui sono di turno per chiedere il mio sacrosanto diritto di implodere e senza fare polemiche. Non si può rinunciare a una sera speciale che inizia così ogni santo lunedì. Troppo carina, no, per fortuna è ancora domenica, ma tra poco è lunedì, è un passo e come sappiamo tante, molte diete iniziano di lunedì e a volte iniziano con il piede storto, il passo storto. Dottor Speciani che è in linea con noi, iniziamo proprio da qui, dal lunedì, da chi lunedì ha pensato di mettersi un po' a dieta. Come si fa per cominciare bene? Beh, allora, qui siamo di fronte ad una situazione classica in cui le persone pensano che mettersi a dieta parta da una prima colazione saltata, dicendo bevo solo il caffè. Risparmio calorie. Ma risparmio calorie. E senza sapere, tra l'altro noi abbiamo parlato abbondantemente in altri incontri di quanto questa cosa, ad esempio, nel diabetico diventi un problema severo. E lo stesso vale per chi deve lavorare con queste situazioni. Perché? Perché creiamo una fame che dura tutta la giornata, per cui poi mangiamo le gambe del tavolo di nascosto, qualche cosa di questo genere, no? Allora, noi dobbiamo, quando parte, e io dico per domani, assolutamente le persone che possono iniziare questo tipo di lavoro devono assolutamente mettersi in gioco con un'attenzione a quelli che sono i picchi di zuccheri, perché è il primo elemento. Se uno davvero vuole iniziare a lavorare sul proprio peso, non è un gioco solo di calorie, perché la Harvard Medical School ce l'ha insegnato abbondantemente. Dobbiamo capire che amidi raffinati, glucosio, zuccheri di qualsiasi colore, anche quelli integrali, non è che cambi anche il fruttosio, un eccesso di frutta individuale, possono essere elementi che portano questi picchi e che sono delle, come dire, addirittura si chiamano glicotossine, no? Quindi l'organismo le sente, va in condizione d'allarme e dice: caspita, cosa faccio? Ho paura! E allora mette corta. E sì, perché noi abbiamo questo atteggiamento risparmiatore. Se abbiamo dei segnali d'allarme, mettiamo su pancia, fianchi e sedere qualcosa che serva per quando avremo le carestie e prossime avventure. Ci ricordiamo ancora di quando eravamo nel Paleolitico. Allora, questo tema è importante, per cui la prima colazione, per chi vuole mettersi a dieta anche per andare al martedì e al mercoledì al giovedì, come diceva la canzone prima, è una prima colazione senza zuccheri, con la quantità di fruttosio strettamente necessaria. Ne facciamo un esempio: prosciutto, uova sode, pane integrale, yogurt, cereali integrali, verdure frollate, verdure, immagino ad una situazione non di frutta, perché a volte l'eccesso può diventare problematico in questo momento, cioè una situazione in cui carboidrati e proteine siano ben bilanciate e fedino la fame. È una condizione che riduce il livello infiammatorio e riduce questo tentativo del corpo di accaparrarsi di tutto. Quindi per favore, per domattina preparatevi. Però, dottor Speciani, lei mi ha fatto una colazione tutta salata. Allora, ho appena detto che io lo so, cosa facciamo? Però, il sapore perché io volevo, lei mi ha spiegato tante volte che il sapore dolce non è fatto solamente da cibi dolci, è un sapore dolce che noi dobbiamo. Certo, però adesso volevo una colazione anche per che chi la conosce sa che è bella paffuta, cicciottina, prorompente, assolutamente, con le curve, lei ha una bionda storia in cui può permettersi di utilizzare alcuni elementi anche dolci nella prima colazione. Però ad esempio, se una cosa carinissima, che sono delle crepe che sono state fatte, in cui noi mettiamo dentro ad esempio una passata di mele. In questo periodo qua mia moglie mi ha fatto delle mele cotte, delle pere cotte del nostro giardino, sono meravigliose, con un po' di zenzero dentro, nessuno zucchero aggiunto. Bravo, è qua che volevo arrivare, una crepettina, ci sono anche delle creme di nocciola senza aggiunta di zucchero, che sono squisite, anche sul pane integrale. Sono fantastiche, però vedi che mi stai aggiungendo proteine, abbiamo imparato a stare insieme qua, su Radio 24 si imparano un mucchio di cose, quindi la cosa è giusta, per cui il mettersi a dieta in questo momento è un controllo di zuccheri, limitare anche gli zuccheri della frutta nel limite giusto, cioè abbiamo delle indicazioni dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, però poi conosco persone che si scofanano, come si dice, 2 chili di mandarini, 4 chili di banane, dicendo tanto il frutta fa solo bene, va bene, è vero, ma se uno, come ad esempio io, ho una genetica familiare in cui diabete, obesità sono estremamente presenti, devo usare quello che dice l'OMS e non andare oltre. Quindi, dottor Speciani, per chi vuole magari perdere qualche chilo e correggere un po' la propria dieta, mi raccomando, domani preparate già qualche cosa stasera, fatevi una bella colazione, che lì si toglie la più grossa, manda dei messaggi al nostro organismo che dice tutto tranquillo, ho tutto quello che mi serve per andare avanti bene, non abbiamo quei crampi, quei buchi che ci spingono poi ad andare a smangiucchiare tutto il giorno e poi mandano in fumo tutte le nostre buoni propositi. Esatto, dottor Speciani, quindi sediamoci a colazione. Mi dà un'indicazione per chi invece al mattino fa sport, va a correre oppure magari a casa fa un po' di cicletto, 2 pesetti? Allora, prima cosa, non bisogna assolutamente riempirsi perché poi si consuma, no? Cioè, la cosa pazza. Diciamo, dipende dall'intensità dell'allenamento. Se uno fa un'ora di corsa intensa, oppure delle ripetute, oppure va a fare un'ora di voga, ti svegli, vai a farti la tua attività fisica e mangi dopo che hai fatto attività fisica. Quindi stomaco vuoto e scorte piene, cioè vuol dire aver mangiato bene alla sera. Se invece vai a fare 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora di bicicletta, vai in giro in bicicletta, fai una bella camminata, puoi anche fare la colazione prima sicuramente. Anche qui però torno esattamente a questo aspetto, cioè è bene che l'organismo già dalla sera prima abbia ricevuto una giusta indicazione, questa è una tecnica che oggi si usa anche nelle gare di lunga distanza, triathlon piuttosto che maratona eccetera, cioè bisogna mangiare correttamente alla sera e al mattino, a quel punto vale quello che abbiamo detto prima. Qui possiamo aggiungere un pochettino di dolce se uno non ha bisogno di perdere peso, e quindi significa spremuta con i cereali, lo yogurt, pane integrale, burro, miele, ma adesso faccio crollare qualche cosa perché lo mangio spesso, il pesce bollito, la bresaola, dei petti di pollo, cioè cerchiamo di costruire anche qui, anche con piccole quantità, come diceva prima Scapanini, ma un bilanciamento corretto in modo che l'organismo riceva i segnali giusti, adatti per capitalizzare in modo vero quello che lo sport ci ha dato di buono. Dottore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buonissima domenica e speriamo di vederci presto, ma anche se lei mi aveva invitato a pranzo, magari. Infatti, chissà, coordiniamo, adeguatamente distanziati. Grazie al dottor Speciani per essere stato con noi, buona domenica. Bene, a che punto siamo? Beh, ci siamo detti tante cose stamattina alla tavola della bufala in tavola, ancora non abbiamo mangiato ma abbiamo chiacchierato molto, abbiamo con il professor Scapagnini ancora una volta ribadito quanto sia importante e quanto sia stretta la relazione tra cibo e salute, e perché il dottor Speciani ci ha invitato a metterci subito alla prova, la tavola è importante e soprattutto il primo pasto della giornata fondamentale, molti di noi ancora faticano a sedersi a tavola al risveglio e consumare qualche cosa di buono, ma è un piccolo cambiamento che può produrre dei risultati molto significativi. E io penso che già anche solo a rivedere un po' il proprio stile alimentare potrebbe aiutarci a mettere un po' ordine nelle nostre giornate e nella nostra vita. Ne è convinto anche un grande amico della nostra trasmissione, Filippo Ungaro, che è già in linea con noi. Ciao Filippo. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Nel tuo ultimo libro, Forte come l'acqua, i 6 passi per diventare potente e adattabile, tu proprio sottolinei questo aspetto, e cioè che rivedere la propria dieta, il proprio stile alimentare potrebbe essere, no, quella spintarella che produce poi a cascata degli altri cambiamenti. Sì, è sicuramente così, perché io ho sempre avuto un certo scetticismo nei confronti del miglioramento della vita in senso lato, no? Trasformazione, cioè sono belle parole, poi uno da dove comincia? E secondo me bisogna cominciare dalle abitudini quotidiane. Alla fine la vita di ognuno di noi non è altro che la sommatoria delle singole giornate, e se riusciamo a riprendere un po' di controllo sulle scelte che facciamo, è chiaro che le giornate le gestiamo in maniera diversa. E come abbiamo detto tante volte anche assieme, uno dei punti su cui investire e con cui cominciare è sicuramente la propria nutrizione, perché sappiamo ormai, diciamo con una certezza veramente forte sul piano scientifico, quanto la nutrizione sia legata alla salute, alla longevità, ma direi soprattutto alla qualità della vita, e quindi è uno dei punti fondamentali da cui cominciare a costruire una vita migliore, che parte poi in definitiva dal volersi un po' più bene, dal rispettarsi un po' di più, no? E certo, un piccolo passo per diventare forte come l'acqua. Mi piace molto il titolo del tuo libro, a cui abbiamo dedicato, lo dico agli amici che ci stanno ascoltando, una nostra video intervista proprio questo venerdì scorso. Grazie a Filippo Ungaro per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a tutti, grazie Nicoletta. Bene, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e ritorniamo subito dopo insieme per aggiungere un posto a tavola. Voilà. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta La bufala in tavola. Allora, care amiche, cari amici, io non la conosco di persona, ma la seguo, sono una sua fan proprio. Allora ho detto a Laura Vanossi, che come sapete lavora con me in redazione, senti, ma invitiamola, così andiamo anche un po' a scoprire qualcosa di lei. E invitala una volta non poteva, l'altra non poteva, l'altra ancora forse, l'altra ancora no. Finalmente ce l'abbiamo fatta e abbiamo in linea con noi Chiara Maci, uno dei volti più amati tra i food blogger d'Italia, ma direi non solo. Chiara, ciao, finalmente! Ciao, finalmente, veramente, ce l'abbiamo fatta! Ti ho acchiappato, che bello! Esatto! Perché trovarti non è proprio semplice, una passeggiata, perché tu ne fai di ogni, come si dice qua a Milano, perché scrivi, vero, poi hai una famiglia, scrivi, poi sei lì che stai registrando, tra l'altro, la terza edizione dell'Italia Morsi, bellissimo, sì, che andrà in onda tra poco, ci siamo. Sì, adesso cominciano le 9 puntate. Sì. Allora, prenderla è un po' complicato, ma adesso noi ce l'abbiamo. Allora, dici tutto di te. Come si fa a diventare Chiara Maci? Allora, intanto si nasce iperattivi. Prima cosa, fondamentale, perché io sono una che non riesce a stare ferma. E sono cresciuta in una famiglia di persone molto attive, quindi difficilmente mi vedrai seduta sul divano a non fare niente. Mi piace fare un sacco di cose, e infatti, come dicevi tu adesso, sono in giro tutta la settimana con l'Italia Morsi. Ho due bimbi piccoli, sì. Quindi ovviamente il tempo da dedicare a loro ci deve essere sempre, deve essere la priorità, quindi deve essere la cosa più importante. Quindi il weekend e il lunedì sono dedicati totalmente a loro, come oggi. E poi c'è tutto il lavoro che non è l'Italia Morsi, ma che è la ricettazione, quindi scrivere ricette, provare le ricette, farle molte volte per le aziende, e quindi tutto quel lavoro che di solito faccio quando i bambini vanno a letto. Certo. Quindi è proprio, e poi un compagno cuoco che insomma ha bisogno anche lui del suo spazio. Una bella sfida. Ogni tanto andare anche lì, sì. Ma è un vantaggio? Adesso lui magari non ci sta sentendo, se lui è lì vicino non te la faccio la domanda, se no, se puoi parlare, ecco, se puoi parlare, dici un po'. Cioè, avere come compagno Filippo Lamantia non è proprio una passeggiatina, a proposito. Ma, nel guarda, senso che è bello sfidante. Noi siamo due sfidanti. Noi siamo una coppia molto particolare, nel senso che entrambi sono molto radicati al proprio territorio ed entrambi non scendiamo a compromessi, per cui ognuno ha ragione. Certo, sempre. Lui rimane fermo sulle sue posizioni, quindi il noaglio, no cipolla, cucina totalmente siciliana. Io sono una campana, quindi con un amore folle per il sud e per la cucina mediterranea, e se mi tocchi aglio e cipolla divento pazza, perché per me brava. L'aglio è tipo la base della cucina mediterranea. Guarda, no? Anche secondo me, anch'io ho un marito che non ama molto l'aglio e la cipolla, però io ti devo dire che in qualche modo lo inganno. Ma tu come fai? Sì, a lui non può. E come si no. fa? Come si fa? Si fa. Allora, secondo me bisogna cuocere molto bene la cipolla, quindi con cotture, non soffriggerla, non rosolarla, ma farla andare lentamente fino a che non diventa trasparente. Io la metto ad esempio nel ragù, che Filippo adora il mio ragù e adora le mie polpette. Io faccio sempre sedano, carote e cipolla. Brava. Ma lui non se ne accorge mai, perché la cipolla cotta bene ti dà solo dolcezza. Quindi in realtà non può esserti sgradevole. Poi sono la prima a dire che se la bruci, come se bruci l'aglio, è disgustoso, però bisogna saperle cuocere le cose. Poi secondo me si riesce sempre in qualche modo. L'aglio è un po' più difficile, perché l'aglio è più forte, no? È più invadente proprio come profumo, come sentore. Però di base ti dico anche che molte volte io cucino per lui, a casa cucino solo io. A casa cucini solo tu, sì, quindi sì. I bambini dicono come brava la mamma, non come brava. Solo magari, sono comunque sempre figli, quindi non diranno mai come brava la mamma, ma diranno sempre, adesso mia figlia è nella fase in cui mi dice sì mamma sei molto brava, lo dicono anche le mie amiche, però non c'è tanta scelta a casa, sai perché? Perché vede che dal ristorante dal papà c'è scelta. Certo, perché la creatura diciamo che è abituata bene oppure abituata male. È abituata male secondo me, perché c'è troppo ogni tanto, però di base la cosa che mi piace è che i bambini respirano la cucina esattamente come l'ho respirata io, ma proprio respirare nel vero senso della parola, cioè svegliarsi la mattina e sentire l'odore. Mentre Bianca fa colazione, tipo stamattina, la domenica, io inizio con tutti quanti i soffritti e le basi per i sughi, e lei questa cosa non le dà fastidio, capito? Le piace. Anche per me è bellissimo. No, io guarda, il mio risveglio, quello proprio quello che per me fa vacanza, fa proprio quello che mi piace di più è quando io mi sveglio e sento l'odore della melanzana fritta. Devi venire a casa mia. Ah, vedi che io ho detto allora, finalmente la prendo adesso, perché intorno a un tavolo uno diventa subito amico. Assolutamente. Per questo noi invitiamo i nostri amici a sedersi alla tavola della bufala in tavola, perché chiacchierando poi si scopre che ci sono tante cose che ci legano, ci accomunano. Ma poi io riconosco subito le persone quando vengono giù da me ad Agropoli in Cilento d'estate, amici, e la mattina c'è sempre obbligatoriamente l'odore della moca e l'odore della melanzana fritta. Beh, perché mia madre inizia a fare le parmigiane alle certo. Io riconosco immediatamente a chi dà fastidio e chi invece gode nel sentire gli odori che per me sono casa, cioè proprio casa al 100% quell'odore, e non potrei toccarlo, è il mio ricordo da bambina. Una volta ho letto un'intervista di Cannavacciuolo che diceva che il suo ricordo da bambino era l'odore appena sveglio per andare a scuola del ragù che pippiava, no? Del ragù che sobbolliva e della moca. Ecco, il mio è praticamente, non è il ragù, ma era la melanzana fritta. Vedi, io e te siamo praticamente sorelle, separate ma sorelle. Senti Chiara, ma se tu ti dovessi descrivere con un piatto, io prendo già la parmigiana, quindi la parmigiana, ecco, è già mia, perché io sono per metà sicula, quindi... Ah beh, allora, di che parte? Catania. Ah ok, fantastico. E Messina, quindi okay. Siamo un po' mescolati, quindi lì. Arancino. E poi arancino. E poi sono mezza piemontese da parte della mia mamma, quindi insomma... Bella fortuna. Sì. Devo dire che sto a metà, ecco. Beh, potrei vivere a Ponza, no? Esatto. Senti. Allora, il mio piatto è assolutamente al 100% lo spaghetto al pomodoro, con tanto basilico, e lo spaghetto al dente, è un po' come sono io, super condita, abbondante come piace a me, e con tanto basilico, perché per me il profumo del basilico è il profumo che scelgo ogni giorno, che mi rappresenta, che mi ricorda tutta la mia infanzia al sud e che assolutamente è caratteristico nella mia cucina. Io metterei il basilico dappertutto. Ovunque. Sì, sì. E poi è così bella quella fogliolina di basilico, sa essere meraviglia. Così elegante, perfetta. Meraviglia, è sempre perfetta. Sì, è vero, vero, è verissimo. Un po' come, guarda, io ti direi, se ti dovessi dire a che pianta assomigli, direi al basilico. Wow. Ha una bella fogliolina di basilico. Chiara, il complimento più bello. Io ti ringrazio di essere venuta da noi. Cara. Torna presto. E poi ci conosceremo di persona. E certo, intanto ecco. Io ti seguo con l'Italia Morsi, che grazie. Mi piace un sacco. Grazie mille. Grazie mille, un bacio un ai bambini. A tutti voi, grazie mille. E un inchino al maestro. Un abbraccio. Grazie ancora. Ciao, grazie a voi. Allora, vi ricordate il numero per il nostro vostro vocale? 335 830 4306. Non è difficile. 335, ok, 830 4306. Boh. Gianmarco Ferronato, che regia la parte tecnica, già lo sa a memoria, chissà quale vocale ci lascerà. Laura Vanossi in assistenza in redazione se la ride, perché lei pensa che finalmente è arrivato il momento di andare a casa e mettere le gambe sotto il tavolo, e qua si sbaglia. Noi ci sentiamo domani alle 6:15. Voi passatevi una buona domenica e mi raccomando, condividete questo numero, se non ve lo ricordate lo trovate sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, e fateci la vostra domanda. E adesso che mangio? Me lo sto chiedendo anch'io. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.